Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, si intensifica sempre di più l'attività del sistema bancario per rendere i conti correnti bancari più chiari, più trasparenti. La prossima iniziativa di sistema, sollecitata da Banca d'Italia, porterà all'elaborazione di 6 profili di calcolo dei costi dei conti correnti. Con questa iniziativa la stessa Banca d'Italia ha dato seguito ad un provvedimento dello scorso luglio che prevede per le banche l'obbligo di riportare nei fogli informativi e nei cosiddetti documenti di sintesi periodici, appunto degli stessi conti, l'indicatore sintetico di costo per ciascuno dei diversi profili, cioè l'indice che appunto ci fa quantificare il costo del nostro conto corrente a seconda dell'utilizzo che ne facciamo. E allora, alla luce di questa novità, di questa indicazione della Banca d'Italia, che le banche, anche su collaborazione dell'Associazione dei Consumatori, stanno appunto tramutando in realtà, cosa succederà concretamente? Stamattina naturalmente cercheremo di capirlo e per farlo tempesteremo di domande. Massimo Roccia, direttore generale dell'ABI, segretario del Consorzio Patti Chiari. Dottor Roccia, bentornato a Salva Danaio. Buona giornata anche a lei. Ovviamente il numero verde per le vostre domande è sempre lo stesso, è l'800240024, oppure ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Chiaramente cercheremo di capire quale sarà l'impatto di questa novità, a che punto è anche l'iniziativa conto corrente semplice, e poi naturalmente, come sempre, tireremo fuori anche un po' le criticità del nostro rapporto con la banca. Come sempre ne avete molte da raccontarci, cercheremo anche di aiutarvi concretamente a capire come si può dialogare al meglio con lo sportello, tanto per quanto la possiamo contestare dalla banca, non possiamo prescindere, per cui dobbiamo farci interlocutori assolutamente attivi con il nostro direttore e chiarire bene tutte le condizioni del nostro rapporto e tutelarlo così al meglio. Prima di partire con il nostro argomento, diamo un'occhiata alla borsa, come sapete, il nostro appuntamento d'apertura fisso. Borsa che oggi è un po' ballerina perché era partita male la seduta, con ribassi anche abbastanza consistenti, quasi vicini al punto percentuale, e questo dopo i rialzi di ieri. Poi la situazione è migliorata, anche se in misura differente a seconda delle piazze considerate, perché Londra si è avvicinata alla parità, Francoforte mantiene ancora il territorio positivo in misura un po' più consistente delle altre piazze, meno 0,5% a Francoforte, Parigi è a meno 0,34, Milano addirittura ad un certo punto ha virato in positivo e continua a mantenere il territorio positivo, il FTSE MIB è in progresso dello 0,15%. Oggi riflettori puntati a Francoforte per la riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, oltre alla decisione sui tassi di interesse, che però rimarranno presumibilmente al 99% invariati nell'Eurozona, all'1%, avremo anche le nuove previsioni sulla crescita dell'Eurozona e sull'inflazione dell'Eurozona, appunto previsioni che verranno formulate dal governatore Trichet e le indicherà probabilmente nella conferenza stampa conclusiva all'incontro del Consiglio Direttivo alle 14.30. E quindi questo insomma è il tema più importante della giornata. E un altro tema importante previsto per domani: la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano. Piazza Affari premia in questo momento particolarmente Geox, più 2,43%, Prismian, dopo i conti pubblicati ieri, il titolo in rialzo del 2,23%, e poi il gruppo ha anche annunciato la prossima emissione di un bond, di un'obbligazione da 400 milioni. Bene la Popolare di Milano, più 1,79%, Exor, più 1,54%, Bulgari, più 1,50%, questo titolo aveva sofferto nei giorni scorsi, trascinato da Luxottica, che aveva pubblicato i conti e non erano affatto piaciuti al mercato. Segno meno invece su Telecom, che perde l'1,49%, il gruppo paga il sell, cioè il giudizio vendere, che è stato diramato e divulgato dagli analisti di Chevron. Fondiaria torna di nuovo giù, meno 1,42%, Atlantia al ribasso di un punto, CIR meno 0,8%. Rapporto euro-dollaro a 1,36,78, dopo che nelle ultime ore l'euro era riuscito a recuperare, sulla scia anche del rafforzamento del piano di austerity della Grecia, era riuscito a recuperare 1,37, adesso è ritornato un pochino indietro, ma sembra insomma in recupero dopo le ultime giornate molto più sofferenti verso il biglietto verde. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo a parlare di conti correnti, e allora parliamo di questa indicazione da parte della Banca d'Italia che chiede maggior trasparenza, soprattutto relativamente ai costi dei nostri conti. Banca Italia prosegue sulla strada della trasparenza tracciata con la direttiva emanata lo scorso luglio e compie un ulteriore passo avanti. La Banca Centrale Italiana è giunta infatti alla definizione dei profili di operatività per il calcolo dell'indicatore sintetico di costo dei conti correnti. Vale a dire del parametro che consente ai consumatori di capire più rapidamente quanto costa il proprio conto corrente. La nuova normativa sulla trasparenza ha infatti introdotto l'obbligo per gli istituti di credito di riportare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi periodici dei conti corrente l'ISC per ciascuno dei diversi profili. In particolare, grazie ad un'indagine in collaborazione con ABI e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, sono stati individuati 7 profili, 6 relativi ai conti correnti a pacchetto e uno riguardante i conti correnti a tariffazione. Il costo dei cosiddetti conti correnti a pacchetto verrà valutato in base a una tipologia di profili di operatività che si basa su variabili sociodemografiche, che sono giovani, famiglie con operatività bassa, famiglie con operatività media, famiglie con operatività elevata, pensionati con operatività bassa, pensionati con operatività media. L'unico profilo elaborato per i conti correnti a consumo, invece, si riferisce a un'operatività particolarmente contenuta, tipica dei conti usati in via occasionale o di quelli che appartengono a clienti che dispongono anche di un altro conto o che vengono utilizzati esclusivamente per l'addebito delle rate del mutuo. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande, già scalpitate al centralino, cominceremo a sentirvi tra poco. Però, dottor Roccia, io comincio subito, non dico con una polemica né con una critica, però se l'obiettivo della Banca d'Italia è quello di rendere il nostro rapporto, soprattutto per quello che riguarda l'interpretazione dei costi dei conti correnti, il rapporto con la banca più chiaro e più trasparente, direi che riuscire con facilità ad identificarci all'interno di uno di questi macro gruppi individuati non è che sia poi una cosa così semplice in sostanza. Insomma, come possiamo un po' intanto rendere digeribile questo argomento ai nostri ascoltatori? Mi aiuti lei, perché io devo dire la verità, non è che ce la faccia molto. Ma ci sono due variabili importanti. La prima è la variabile appunto sociodemografica. Demografica, credo sia facile per ciascuno sapere se è un giovane, se è una famiglia o se è un pensionato. Perfetto. Questo credo sia molto facile. L'altra variabile è il numero e la tipologia delle operazioni, e quindi questa è meno ovvia, e proprio per questo esistono delle applicazioni. Per esempio, nel nostro motore di confronto il cliente può mettere la sua operatività, quindi sapere se usa gli assegni, se riceve uno stipendio durante l'anno tramite un accredito in conto corrente, sapere se ha domiciliato le utenze, e il simulatore da solo gli calcola quante operazioni fa. La seconda variabile è quindi il numero delle operazioni fatte nell'anno. Per dare un'idea concreta, si va dalle 112 dei conti a consumo che esprimono un'operatività bassa fino a 253 delle famiglie con esigenze evolute. Sulla base di queste due variabili, quindi la prima, sapere se si è una famiglia, un pensionato, un giovane, e la seconda, il numero delle operazioni, il cliente si identifica, diciamo, in un profilo tipo, e questo è un po' un passepartout col quale lui da quel momento in poi può confrontare in modo assolutamente omogeneo la stessa operatività di utilizzo di un conto corrente fra tutti i conti correnti italiani. Questo è un grosso successo dell'Italia a livello europeo, perché è la normativa di trasparenza più avanzata che esiste in Europa, perché siamo l'unico paese nel quale da ogni sportello è possibile ottenere un modulo che esprime un prezzo esattamente identico a quello che sul motore di confronto pubblico, diciamo così, che è quello di Pattichiari, è confrontato con tutti gli altri prodotti del mercato. Dottor Roccia, ci dica subito intanto, in termini di tempo, quando il nostro intermediario, la nostra banca, sarà tenuta a rilasciarci il foglio informativo con queste informazioni e il documento di sintesi periodico del conto corrente con l'ISC all'interno, appunto, con queste informazioni? Allora, questo scatterà da 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento, quindi qualcosa che è molto molto vicino nel tempo, però sottolineo il fatto che già oggi esiste l'ISC per profilo di consumo sul motore di confronto di Pattichiari, e questa è una evoluzione all'intero sistema dello stesso approccio che l'industria, attraverso l'autoregolazione di Pattichiari, aveva deciso nel gennaio del 2004. Quindi già oggi i clienti, se vogliono, trovano sul sito un confronto di circa 800 prodotti di conto corrente, quindi praticamente l'intero mercato, fatto con 7 profili egualmente distinti tra giovani, famiglie e pensionati, ma che riflettono una operatività calcolata antecedentemente. Questi sono i nuovi profili ufficiali che applicheranno tutte le banche. La normativa che ho citato prima, indicata appunto dalla Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, questo provvedimento del 29 luglio 2009, aveva anche chiesto al sistema bancario appunto di attivarsi con questo nuovo strumento, il conto corrente semplice, proprio sempre per far fronte alle esigenze di base dei consumatori, favorire la cosiddetta inclusione finanziaria. Poi magari daremo anche qualche indicazione in più su questo termine. In che relazione sono le due iniziative, dottor Roccia? Ma hanno due obiettivi diversi. Il conto corrente semplice ha l'obiettivo di includere finanziariamente persone che oggi non hanno un conto corrente, che purtroppo in Italia sono un numero molto elevato, il triplo della media dell'Europa, e questo è un problema forte perché determina una anomala circolazione del contante che viene usato impropriamente ed eccessivamente come strumento di pagamento. Il conto corrente semplice è un prodotto che sostanzialmente replica quello che era in origine il servizio di base fatto spontaneamente dall'industria, ed è un prodotto di accesso, di primo accesso al mercato finanziario, quindi un prodotto semplice che ha una operatività molto limitata, quindi piccola come numero di operazioni, e che consente un costo basso. Diremmo, se fossimo negli anni 50, la 500 dei conti correnti. Allora, io vorrei invitare i nostri ascoltatori a prenotare i loro interventi all'800240024, magari proponendo degli interventi coerenti con il tema che stiamo affrontando questa mattina, perché naturalmente identificarci all'interno di uno dei settori che abbiamo individuato col dottor Roccia, che poi magari definiremo meglio per capire che cos'è un sistema di tariffazione forfettario, che cos'è il conto corrente a pacchetto, che cos'è un conto corrente ordinario, oppure qual è il conto corrente a convenzione, in convenzione. E questo perché vi chiedo di farlo, naturalmente, perché magari in questo momento stiamo pagando anche per la gestione del nostro conto corrente un onere, un costo troppo elevato, proprio perché forse ci siamo inquadrati male e se sulla base delle operazioni che facciamo magari potremmo essere trasferiti in un altro settore e quindi poter risparmiare notevolmente, insomma, sulla spesa annuale complessiva che dobbiamo sostenere proprio per gestire il nostro rapporto con la banca. Per cui magari così facciamolo insieme, se volete, questo lavoro questa mattina. Dateci qualche vostro dato anagrafico e anche magari il numero medio di operazioni che fate ogni anno, per capire se sulla base del vostro profilo potete essere identificati in maniera diversa dalla vostra banca e quindi risparmiare qualcosa. Eccoci di nuovo a Salvadanaio. Allora, questa mattina di che cosa stiamo parlando? Del nostro conto corrente, perché tra qualche mese ci arriveranno a casa i fogli informativi, i documenti di sintesi del nostro conto corrente, sulle condizioni del nostro conto corrente. Questi fogli informativi, il documento di sintesi appunto, conterrà informazioni aggiuntive sui cosiddetti profili di, io lo so che sembra un po' complicato, però è una normativa nuova della Banca d'Italia con la quale dobbiamo prendere un po' di confidenza, perché così almeno nei prossimi mesi siamo preparati. In sostanza, la Banca d'Italia cosa ha fatto? Ha determinato i cosiddetti profili di operatività che sono necessari per calcolare il costo del conto corrente. Quindi, in base a questi profili individuati poi dalle banche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, possiamo identificarci noi all'interno di uno di questi profili, capire se possiamo se è corretto magari il costo che la banca ci fa di quel conto corrente, o seppure dobbiamo cambiare profilo perché abbiamo modificato anche il nostro rapporto, le nostre attitudini e le nostre abitudini di consumo dello stesso conto corrente. So che è materia ostica, e però siccome poi con la banca, come vi dicevo prima, non possiamo prescindere dall'utilizzo appunto della banca, lo sapete bene, poi potete contestarlo meno come spesso ci capita di fare, vi capita di fare, però in sostanza dobbiamo essere più attenti anche alla documentazione che la banca ci manda a casa, e quindi vi stiamo già informando in via preventiva di quello che accadrà nei prossimi mesi. Massimo Roccia, direttore generale dell'ABI, stamattina ci aiuta a capire qual è la portata di questa novità. Io, dottor Roccia, naturalmente, siccome le domande le fanno sicuramente più intelligenti i nostri ascoltatori, gliele faccio sentire subito qualcuna, così cerchiamo di capire anche se hanno ben compreso in sostanza la portata di questa misura, chiamiamola così. Intanto Giorgio da Brescia, che però punta un po' il dito sui costi, giusto? Sì, esatto, buongiorno. Ci dica. Buongiorno, sono Giorgio da Brescia e punto il dito appunto sui costi, che non sono mai stati tanto elevati come in questo periodo. Non solo, ma possono fare tutte le innovazioni tecnologiche che vogliono, di pensiero, chiamiamola, però in effetti poi ti trovi di fronte alle difficoltà che, andando in banca, adesso stanno automatizzando tutto, cioè i dipendenti diminuiscono, ti trovi lo sportello automatico, e quindi la difficoltà delle persone a confrontarci con questo nuovo. Senta Giorgio, no, il tema del costo mi interessa molto, perché in realtà non rispetto a tanti anni fa, quando in realtà mettevo in croce Massimo Roccia proprio sul problema reale, perché esisteva, era un problema europeo che ha messo in serie difficoltà dal punto di vista reputazionale anche il sistema bancario italiano. Le cose sono cambiate, per la verità, modificando un po' le nostre abitudini, magari utilizzando di più il conto online, per esempio, tanto per citarne uno. I costi si sono abbattuti, adesso io non ho le ultime cifre del sistema. Perché lei riscontra che, per esempio, il costo del suo conto corrente è aumentato? Ha modificato, per esempio, l'utilizzo? Ho dovuto modificarlo per forza maggiore, perché io utilizzo sempre internet e quindi lavoro così, però nonostante questo ti fanno pagare la carta di credito, ti fanno pagare le operazioni di prelievo per i soldi, sportelli. Ma ci sono cose che ci sono sempre state, no? Per capire dove sono aumentati i suoi costi, quindi ne chiediamo ragione all'ABI. Allora, il problema però non è tanto per me, ma è per tutte quelle povere persone che non hanno dimestichezza con il sistema informatico. Perché io vedo che mia moglie è già in difficoltà e tanti altri, io frequento molte persone over 60, io ne ho 64, ma ho la fortuna di essermi inserito in questo meccanismo, tutti gli altri sono tagliati fuori e quindi si trovano con la grande difficoltà. Quindi in sostanza lei denuncia che chi ancora deve fare affidamento allo sportello bancario e non può affidarsi ad internet per risparmiare, come dire, paga le conseguenze di questo. Paga le conseguenze, ma molto care le paga, non solo, le dirò di più, che le banche probabilmente non hanno mai fatto tanti utili come in questo periodo. Giorgio, adesso questo è un altro tema. Dottor Roccia, non ha tutti i torti però il nostro ascoltatore, effettivamente, nonostante si tenti in ogni modo di scoraggiare l'utilizzo diretto dello sportello bancario, però è chiaro che c'è una fetta di popolazione che non può fare a meno di farlo. Mi riferisco soprattutto ovviamente alla popolazione di una certa età, i ragazzi oggi sono attaccati ad internet dalla mattina alla sera, ma mia mamma per esempio non ci pensa per niente di gestire il suo conto corrente da un portale, da un personal computer. Mi pare che la domanda sia molto interessante per dire due o tre cose fondamentali. Oggi un conto allo sportello costa in medio 103 euro, questo è il dato della settimana passata, che deriva appunto dal database di Partigliari, mentre un conto online costa 64,9 euro. È quindi facile dimostrare che si risparmia il 30% usando il canale online, che è molto più efficiente, impegna meno personale e quindi costa di meno, e questo vantaggio è trasferito ai clienti. E dal punto di vista del trend, posso dire che a gennaio del 2004 questo conto, che oggi costa 103 euro, costava 147 euro. Quindi, come stava dicendo lei, mi pare che il trend sia estremamente positivo. Diciamo che abbiamo avuto delle punte di costo anche più alte. È chiaro che questa cifra che lei ci dà si riferirà ad un conto corrente di utilizzo abbastanza modesto. Poi è chiaro per operare. È la media del profilo degli italiani sulla base della profilatura attuale, quindi dei 7 profili che vengono usati. Però la domanda è utile per un altro pezzo, secondo me, per capire come si usano i profili. Ecco, dire uso la carta di credito, uso una carta prepagata, faccio degli assegni, pago delle utenze domiciliate, pago le imposte o ricevo dei pagamenti ricorrenti, è proprio il modo per capire come si usano i profili, perché nei profili ci sono tutti questi blocchi di servizi e il cliente, guardando questa tabella, che diventerà a questo punto un punto di riferimento essenziale, deciderà quali di questi servizi lui intende usare dentro l'anno. Per esempio sui giovani, sul profilo giovani c'è una carta prepagata che invece non c'è sugli altri profili, o ci sono meno bonifici che invece sono più alti sugli altri profili. Guardando questa operatività capirà perfettamente qual è il suo profilo di consumo e potrà sapere in anticipo, con una grande precisione, quanto gli costerà il conto corrente durante l'anno. Ripeto, questa è una enorme novità e credo sia un passo avanti gigantesco dal punto di vista della trasparenza, ma anche della comparabilità, perché a questo punto, entrando in qualsiasi filiale, il prezzo di quel prodotto è immediatamente confrontabile tramite i nostri motori di confronto con tutti i prodotti del mercato, e questo è un grosso passo avanti. Mi scusi dottor Roccia, però la mia banca, per esempio, cioè parlo di me interpretando così un po' una possibile domanda da parte di tutti gli ascoltatori, la mia banca teoricamente conosce tutte le mie abitudini di utilizzo di quel conto corrente, non può già dirmi come sono profilata, come sono identificabile? Certo, la banca per ciascuno. Piuttosto che mandarmi un documento di sintesi dove ci sono 6 profili generali, ma no, può già dirmi dove sono inserita, No, la banca le manda il documento di sintesi o il foglio informativo del suo prodotto, che è quello che lei ha comprato, non le manda il foglio informativo di tutti i prodotti della banca, che sono a volte 10 o 15. Quindi proprio questo è il punto, il cliente riceverà un'informazione sia all'inizio del rapporto che in continuità di rapporto che riguarda il suo prodotto e il suo profilo, e in più riceverà nel rendiconto annuale una cosa molto importante, cioè l'indicazione di nuovo con un solo numero, ripeto un solo numero, di qual è stato il costo dell'operatività annuale, e con una frase che avverte il cliente che può confrontare il costo annuale con il costo del profilo tipo, e se c'è una grande differenza significa che questo potrebbe non essere il prodotto più adatto. Io non avevo capito, nel senso che pensavo che sulla base della normativa della richiesta fatta alla Banca d'Italia la banca mi mandasse intanto nel foglio informativo l'indicazione dei 6 profili che la Banca d'Italia ha chiesto di elaborare a voi e all'Associazione dei Consumatori, e di conseguenza immaginavo che la banca accanto mi mettesse un altro documento dove mi dicesse tu sei questo tipo di profilo sulla base del consumo che fai, del tuo conto corrente. No, ma la banca non può decidere lei qual è il consumo del cliente, ma lo deve decidere il cliente. La banca manda al cliente la documentazione, diciamo così, sia come foglio informativo ad inizio del rapporto che in continuità di rapporto col documento di sintesi, che è quello che riporta le variazioni delle condizioni relativa al contratto che la banca ha in essere con quel cliente. Quello che è molto importante è che a questo punto, però, quando un cliente vuole cambiare banca e entra in una filiale, troverà un incrocio molto facile tra i profili e i prodotti, quindi la banca dirà: siccome lei è una famiglia con esigenze medie, noi abbiamo questi 3 prodotti per questo profilo, e a quel punto sarà molto chiaro come il prezzo dipende dal profilo, cioè se lei vuole 180 operazioni, come è più o meno quella dei giovani, e non ne vuole 253, come è il profilo più alto delle famiglie con esigenze elevate, capirà che il primo prodotto costa una cifra e il secondo una cifra diversa. No, infatti la domanda che io le volevo fare gliela risintetizzo facendone una di un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666: perché dopo che la banca vede i miei movimenti non mi dice qual è il conto corrente più conveniente? Ma questa è una politica commerciale che sicuramente molte banche già stanno facendo. Infatti, è possibile che possa accadere, perfetto. Che molte banche stanno richiamando i clienti dicendo: guardate, noi abbiamo fatto un prodotto particolarmente adatto a questo profilo e la invitiamo a spostarsi su questo profilo. Ma oggi l'informativa è basata sui contratti attuali e quindi ogni cliente riceve ovviamente le informazioni del suo contratto. Rapidamente James da Bergamo, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo solo sapere se i bolli dello Stato, gli 8,55 euro trimestrali, venivano poi compresi in questo indicatore che era l'ISCA per i conti correnti. Dottore, scusi James. E poi soprattutto se per caso i conti correnti, che magari anche internet danno zero costi, però giocano sul fatto che abbassano la remunerazione del conto corrente sul tasso di interesse al cliente a zero, anche questo indicatore andava a incidere su quello che è l'effettivo costo che verrà visualizzato al cliente. James, la ringrazio. Allora, adesso rispondiamo a James da Bergamo, però vorrei rispondere anche alle numerose osservazioni che ci stanno arrivando al nostro servizio SMS, al 349-238-6666, perché ci sono molti ascoltatori, dottor Roccia, che stanno denunciando come molti oneri su gran parte dei servizi bancari siano aumentati negli ultimi mesi. Io ne leggo qualcuno: la mia banca mi fa addirittura pagare 2,68 euro per bonifici home banking, altro che incentivare internet, pago come allo sportello. Un altro ascoltatore ci chiede che per l'operatività sul conto titoli sono aumentati appunto gli addebiti su ogni singola operazione. Sull'acquisto di un titolo azionario online fino al 31 ottobre versava una commissione zero, non versava nessuna commissione, adesso è a 10 euro. Allora, il punto è, perché sto leggendo queste mail? Perché siccome gli italiani fanno ancora molta fatica, quando sono insoddisfatti del rapporto con la banca, a cambiarla, allora vorrei magari, dottor Roccia, invitare anche a farlo, perché a quanto pare le nostre raccomandazioni su questo punto non sono mai sufficienti, visto che adesso anche spostare il conto da una banca all'altra attraverso le procedure automatiche che indicate voi stessi su Patti Chiari è un po' più semplice, allora magari pensiamoci, riflettiamoci o no. Rispondo prima a James. Esatto. Il canone che viene espresso, il costo che viene espresso, non include l'imposta di bollo perché non è una componente, diciamo, di prezzo, ma è un'imposta che si aggiunge al prezzo. E l'altra domanda invece riguardava i conti online con rendimenti, mi pare, a zero, che costano zero. Questi conti che hanno un patto col cliente, praticamente tu non paghi niente e il rendimento generalmente è anch'esso basso, si dividono in due categorie, quelli che sono fatti per profili bassi di operatività e quelli fatti per profili alti. Su quelli per profili alti il cliente non paga niente, ma c'ha invece un rendimento molto competitivo sulle somme depositate, spesso con dei parametri di somma massima depositabile, e sono dei conti estremamente convenienti. Quindi questo mi pare che riconfermi la tesi che i prodotti online hanno una forte convenienza sia in termini di costo, perché costano il 30% in meno, sia in termini di rendimento, perché offrono dei rendimenti estremamente competitivi. Allora, l'ultimo punto, invece, esatto, dei singoli prezzi, i conti online hanno molto molto spesso, diciamo così, i bonifici fatti online che costano zero fino ad un certo plafond. La tariffazione, in questo caso 2,68, scatta quando il cliente ha già superato il plafond di bonifici inclusi nel pacchetto, e quindi a quel punto quello che il cliente deve fare è cercare di capire se in un anno ne fa 20 e 30 e comprare un pacchetto che li comprende nel canone annuale. Il tema invece, per esempio, del conto titoli, dottor Roccia, fino a qualche tempo fa smontarlo, mentre per esempio chiudere un conto corrente è diventato più semplice negli ultimi anni e spostarsi da una banca ad un'altra è diventato un po' più, come dire, un processo un po' più agile da fare rispetto agli anni passati, per smontare invece un conto titoli la procedura è ancora più complessa. Esatto. A che punto siamo da questo punto di vista? Siamo molto vicini ad un risultato abbastanza storico, perché a giugno partirà un sistema di trasferimento automatico anche del conto titoli, come oggi succede per gli addebiti delle rate di mutuo, per i RID, per i bonifici, e quindi i clienti potranno, così come oggi accade per questi tre servizi, andare direttamente alla nuova banca ed eseguire dalla nuova banca l'ordine di spostamento del dossier dalla banca vecchia alla banca nuova. Purtroppo nei conti titoli, come è facilmente immaginabile, c'è sotto una complessa operatività della banca depositaria, dei titoli non dematerializzati, della verifica del possesso e dell'identità del soggetto, perché trattiamo una materia estremamente delicata, e quindi è ovvio che è qualcosa di molto più time consuming, molto più impegnativo dal punto di vista del tempo che non spostare semplicemente l'addebito dell'utenza del gas. Ma ci stiamo arrivando. A giugno riusciremo a offrire al mercato una procedura all'avanguardia in Europa e ad oggi unica in Europa di trasferimento automatico attivando la procedura dalla nuova banca. A giugno naturalmente ci ritorneremo su questo punto. Volevo chiedere ancora un secondino di pazienza ad Antonio da Messina, Alberto da Pistoia, perché adesso li sento molto volentieri. Ci sono un paio di messaggi che hanno a che fare con l'ecologia e la banca, un rapporto molto strano, ma insomma stamattina riusciamo a fare anche questo. Edmondo da Bologna ci dice: ho ricevuto un credito di pochi euro dalla banca per risparmio energetico grazie al conto online. In sostanza, utilizzando l'online, dottor Roccia, immagino che la banca abbia risparmiato un po' di carta e quindi questo risparmio lo riconosce anche all'utente. Le risulta? Esatto, questa è una bellissima domanda, ci fa trattare un tema bello. Oggi noi spediamo solo sui conti correnti circa 3 miliardi di pagine. 3 miliardi di pagine all'anno sono una quantità sconfinata di foreste. Noi vorremmo in tutti i modi ridurre fortemente la quantità di documentazione che viene trasmessa periodicamente ai clienti. Questa riforma già la riduce intorno ad un terzo, quindi la riduce del 30%, proprio grazie a documenti sintetici che concentrano molto l'informazione e la rendono più efficace. E quindi credo che ci sia un tema sostanziale di ecologia, perché spesso questa enorme quantità di carta non solo produce smaltimento della carta, ma anche consumo per la, diciamo, inoltro a casa dei clienti. E ma infatti, oltretutto, insomma, conti correnti, che tra l'altro estratti conto che conserviamo, almeno io li conservo a lungo, ma c'è chi li butta via seduta stante non appena li riceve, per cui davvero uno spreco inaudito. C'è un altro ascoltatore che invece ci dice: ho sentito parlare di una iniziativa della Banca Nazionale del Lavoro su un conto ecologico. Guardi, ho cercato al volo su internet e mi risulta che sia un nuovo conto corrente che si chiama Metti in conto un nuovo albero, quindi anche qui, insomma, lo spirito addirittura ambientalista delle banche si sta facendo sempre più avanti. Pare che è un'iniziativa con la quale questa banca, che questa banca dedica alle città italiane, la banca donerà alle amministrazioni locali un albero per ogni conto corrente aperto nei primi mesi di attività delle nuove agenzie, appunto, che sono in corso di apertura, per cui chiaramente potete andare ad informarvi se questo è ciò che vi interessa. Sentiamo rapidamente Antonio da Messina. Antonio, rapido, grazie, buongiorno. Ciao. No, io mi sento una mosca bianca in mezzo a questi amici che hanno chiamato, perché io sono passato da 4 anni dalla banca tradizionale a un conto online e sono passato da un costo di 300 euro a un costo zero e in più lasciamo stare che è remunerato, però effettivamente non pago più nulla, non pago i prelievi su altri sportelli. Sì, sì, infatti. Però la cosa importante è che c'è in questa banca c'è un promotore che ti segue. Mm-mm. Quindi il consiglio che mi sento di dare alla gente è: sì, cercate di provare, perché risparmio. Quindi in sostanza non è internet, è andato a Barclays, se non sbaglio, Antonio. Come? È andato a Barclays? No. Ah, no, è un'altra banca. Sì, no, sì, il tema è capire se comunque vi manca proprio anche l'aspetto fisico dello sportello bancario, perché c'è chi non riesce a fare a meno, Antonio. Sicuramente non è neanche detto che anche non rinunciando allo sportello si debba pagare 300 euro l'anno per la gestione di un conto corrente, magari se le operazioni sono limitate, per cui credo anche che ci sia una via di mezzo. Comunque lei ha fatto una scelta drastica, una persona molto attiva nella gestione del suo conto, ed è corretto così. Vorrei sentire Alberto da Pistoia rapidamente, grazie, perché ci fa tornare al volo sul conto corrente semplice. Sì, infatti, volevo una cosa che mi sembra interessante: una figlia studentessa a cui vorrei aprire un conto semplice, appunto, volevo sapere quali erano le condizioni e i servizi offerti. Grazie, dottor Roccia. Consente tutti i servizi transazionali di base, quindi ricevere degli accrediti, disporre dei bonifici, avere una carta prepagata, quindi è il prodotto ideale per una persona che entra oggi nella cosiddetta bancarizzazione, cioè nell'uso dei servizi bancari, e ha un costo molto contenuto, ampiamente inferiore ai 100 euro all'anno. È già previsto che tutte le banche lo offrano, dottor Roccia? Sono tutte base volontaria, ma siamo sicuri che tutti quanti lo offriranno, come già oggi offrono il servizio di base. Dico una cosa per il cliente di prima, e cioè che oggi la maggior parte dei conti allo sportello sono anche ibridi, quindi chi oggi ha un conto che usa allo sportello già oggi può usarlo anche online per fare alcune operazioni che sono sicuramente più convenienti, più veloci, fatte online, tipo i bonifici o ordini di accredito. Allora, Mario da Roma, l'ultima domanda di oggi. Buongiorno a tutti, volevo fare più che una domanda un'osservazione. Sì. Il fatto che sostanzialmente un conto online secondo me non dovrebbe costare proprio, anche perché tutte le operazioni che, diciamo così, su un conto tradizionale, recandoci in banca, le dovremmo aver fatte da un impiegato, da un addetto, le facciamo autonomamente, per cui sostanzialmente c'è un guadagno effettivo dal punto di vista del personale, del, diciamo, modulistica e anche della corrente che utilizziamo attraverso il nostro computer delle banche. Questa è un'osservazione, per cui un signore diceva da 103 a 64, per me il 103 tradizionale dovrebbe costare 24 un conto online, oppure zero, insomma. Ecco. Beh, dipende anche però dal numero di operazioni che si fanno, Mario, magari lo uso tantissimo e quindi non lo so, dottor Roccia, ha ragione Mario, è possibile adesso proprio il niente per niente, mi sembra un po', come dire, un obiettivo. Credo che a zero non si possa comprare nulla nel mondo, certamente l'infrastruttura che viene costruita per consentire ai clienti di lavorare e usare queste piattaforme ha un costo, quindi non è che questa viene costruita da zero, anche perché i livelli di sicurezza che presidiano queste transazioni sono molto molto elevati, e soprattutto perché la banca garantisce, nel caso in cui ci sono errori o ci sono problemi, diciamo così, nell'esecuzione delle transazioni, al cliente una garanzia sull'esecuzione delle operazioni stesse. Quindi tutto questo impedisce di farlo costare zero, la fa costare un terzo in meno di un conto tradizionale. Però insomma, l'osservazione è interessante, magari quei 64 potrebbero diventare qualcosa di meno, e chissà che non lo diventino. Dottor Roccia, grazie, buona giornata, presto. Lo abbiamo salutato, dottor Roccia ha già chiuso il telefono. Io ringrazio Gaia Romani e Paolo Corleoni quest'oggi in diretta con me per Salvadanaio. Salvadanaio che torna domani. Buona giornata. Salvadanaio.